Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme per questo appuntamento di Effetto Notte. No, non vi siete addormentati, vi siete improvvisamente risvegliati il sabato pomeriggio. Questa sera sarete in compagnia mia, di Marta Cagnola. Vi teniamo in compagnia fino alle 22, come sempre in diretta con Effetto Notte, solo per questa sera, sempre la trasmissione giusta. C'è la conduttrice sbagliata, sono io, ma non vi preoccupate, siamo come sempre insieme fino alle 22 e ci potete tenere compagnia con gli sms e i whatsapp al 349-238-6666, ma ci sono anche i miei account social, Twitter e Instagram, chiocciola Marta Cagnola. Allora, tradizionalmente, Effetto Notte inizia con i titoli. Scontro aperto nel governo, Renzi attacca Conte, ci cacci pure. Coronavirus, Niccolò supera i controlli in volo per l'Italia in biocontenimento. Arriva il piano per il sud, ma è ironia social, l'immagine è del Golfo di Trieste. Banksy ricompare a San Valentino, ragazza Cupido e fiori di sangue. Allora cominciamo con il riassunto delle notizie del giorno. In primo piano, anche questa sera i rapporti tesi all'interno della maggioranza. Lo scontro tra il premier Conte e Matteo Renzi è ormai aperto e anche oggi sono volate accuse e controaccuse. Lo scontro post Consiglio dei Ministri è tutt'altro che risolto. Matteo Renzi continua ad attaccare. Se il premier Giuseppe Conte vuole cacciarci, faccia pure, è suo diritto. Ma se vogliono noi, devono prendersi anche le nostre idee. Siamo alleati, non sudditi, scrive il leader di Italia Viva su Facebook, riferendosi alla diatriba sulla prescrizione. A stretto giro replica il premier. Ho detto, io una responsabile di governo, sono andato avanti ai cittadini a chiedere la fiducia per realizzare un programma. Sarebbe normale lavorare a un Conte Ter? Mi fido di Matteo Renzi. Io mi fido del programma che abbiamo. Conte aggiunge anche di non aver sentito nessuno da parte di Italia Viva, ma le sue porte sono aperte. Ci devono dire però se vogliono correre con noi. Fiducioso nella possibile soluzione della crisi, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Ieri il CDM ha varato la riforma del processo penale che contiene anche il lodo Conte bis, stop alla prescrizione se condannati in primo grado, e Renzi promette battaglia in Parlamento. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E oggi intanto il Presidente del Consiglio ha presentato il piano per il Sud. Negli ultimi 10 anni il Sud Italia ha perso il 10% del suo PIL e 900.000 abitanti, quasi tutti giovani. Il governo Conte punta dunque al rilancio del Sud con un piano decennale da 123 miliardi di euro presentato a Gioia Tauro, con la gaffe del mare di Trieste in copertina. Un libro dei sogni come tanti prima, si potrebbe dire, ma l'esecutivo punta a misure già approvate nella legge di bilancio. L'obbligo per tutti gli enti statali di spendere il 34% delle risorse al sud rispetto al 22% attuale, cosa che insieme al rafforzamento dell'agenzia di coesione dovrebbe far salire gli investimenti al sud di 7 miliardi all'anno già dal 2020, in tutto 21 miliardi in più nel 2022. E poi il credito d'imposta per la ricerca e per gli investimenti delle imprese, gli sgravi fiscali per chi assume donne, le zone economiche speciali rafforzate, l'avvio di lavori su strade e ferrovie per 33 miliardi in 3 anni, i progetti per la scuola. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E oggi si è parlato molto anche di Air Italy, licenziamento collettivo in arrivo per indipendenti, lo annunciano i commissari liquidatori della compagnia. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale della società e compagnie del trasporto aereo per martedì 25 febbraio. Una corsa contro il tempo per far sì che venga bloccata la liquidazione di Air Italy e salvaguardati i lavoratori costretti a convivere con la paura dei licenziamenti. L'avvio della liquidazione apre di fatto questa strada, dice Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Filt Trasporti. Per questo motivo è necessario che ci sia una sospensione della procedura e un riavvio dell'attività per consentire ai lavoratori di ottenere almeno gli ammortizzatori sociali conservativi. La compagnia aerea, rimarcando che non è partita alcuna lettera di licenziamento, con una nota fa sapere che questa mattina i liquidatori hanno illustrato ai dipendenti la possibile evoluzione della procedura di liquidazione, confermando l'intenzione di adottare tutte le misure possibili di sostegno al reddito compatibili con la procedura. Tra le possibilità prese in considerazione anche la cessione di rami d'azienda che comprendano il possibile mantenimento di tutti o di parte dei posti di lavoro. In giornata la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha scritto ai liquidatori per formalizzare l'urgente richiesta di cambio della procedura dal momento che la liquidazione danneggia pesantemente i lavoratori e la possibilità di garantire il trasporto aereo sulla Sardegna. Per il 20 febbraio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato i sindacati, la Regione Sardegna e la Regione Lombardia per approfondire la vicenda. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari. E torneremo a parlare di questo argomento in questo effetto notte, daremo anche un po' di istruzioni per l'uso su quello che potrà succedere nelle prossime settimane per chi dovrà volare, per chi avrebbe dovuto volare con Air Italy. E ora veniamo al coronavirus con una notizia molto attesa. Nicolò, lo studente bloccato in Cina per due volte a causa della febbre, ha superato al terzo tentativo i controlli medici e dunque è pronto per tornare in Italia. Manca poco al ritorno in Italia di Niccolò, lo studente 17enne di grado rimasto bloccato a Wuhan, città focolaio dell'epidemia di coronavirus a causa della febbre. Superati i controlli medici prima di imbarcarsi, dovrà ora affrontare un volo di 14 ore sull'aereo militare speciale attrezzato con personale sanitario e con barelle isolatrici per il biocontenimento. Il velivolo dovrebbe atterrare in Italia domattina alle 7 a Pratica di Mare e Niccolò sarà poi trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto a quarantena. In Cina i numeri dell'epidemia continuano a salire. Secondo gli ultimi dati delle autorità cinesi sono 1.380 i decessi, tra i quali 6 operatori sanitari. I contagi sono 63.851 e i pazienti guariti 6.723. E proprio questi pazienti che hanno superato e sconfitto il virus potrebbero essere parte della soluzione. In Cina i medici hanno infatti chiesto ai pazienti guariti di donare il sangue perché il loro plasma contiene un'alta concentrazione di anticorpi e si è dimostrato molto efficace nel trattamento dei pazienti in condizioni gravi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in Francia a far parlare di sé è un fedelissimo del presidente Macron. La rivoluzione del web è anche questo. Nelle campagne politiche senza esclusioni di colpi, i colpi con la forza mediatica di internet diventano da KO. In questo caso si tratta di un video a luci rosse attribuito a Benjamin Griveaux, candidato di En Marche, partito fondato da Macron, alla poltrona di sindaco di Parigi. A diffonderlo online Piotr Pavlensky, artista russo rifugiatosi in Francia, non nuovo a performance estreme. E in un video su BFM Paris è arrivata la reazione del candidato ex socialista. Un sito internet. Un sito web dei social network, ha spiegato, hanno rilanciato degli attacchi ignobili in cui viene messa in discussione la mia vita privata. E poco dopo l'annuncio. Ho deciso di ritirare la mia candidatura all'elezione municipale parigina. Questo torrente di fango mi danneggia, ma soprattutto fa male a chi amo, ha anche detto il candidato. Pavlensky ha giustificato il suo gesto dicendo di aver voluto denunciare l'ipocrisia di Griveaux, ma allo stesso tempo si è generato un fiume di reazioni a sostegno del 42enne fedelissimo del presidente Macron, in cui si è parlato di macchina del fango e clima inquietante, a cominciare da quelle degli altri candidati a sindaco di Parigi e del premier francese Edouard Philippe. Intanto però tra un mese si terranno le elezioni municipali e Griveaux, terzo nei sondaggi, non ci sarà. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Domani in Egitto l'udienza per lo studente egiziano in carcere da venerdì scorso, dopo essere tornato in patria per una vacanza dal master che stava seguendo in Italia all'Università di Bologna. Si terrà domani a Mansour, a 120 km dal Cairo, l'udienza per l'appello presentato dai legali di Patrick George Zaki contro l'ordinanza con cui l'8 febbraio scorso il ricercatore egiziano studente all'Università di Bologna è stato arrestato. Se il ricorso sarà accolto, Patrick verrà scarcerato. In caso contrario bisognerà aspettare almeno fino all'udienza del 22 febbraio, in cui i giudici decideranno se prorogare o meno la custodia cautelare. La mobilitazione è cruciale, continuate a parlare di Patrick, ha twittato da Berlino Amr, l'amico dello studente di Bologna che ha denunciato di essere stato rapito e torturato nel 2015. Mentre si moltiplicano le iniziative di solidarietà, lunedì il corteo a Bologna, lo scenario diplomatico si complica con il presidente della Camera dei Deputati egiziana Ali Abdel Al, che ha definito un'ingerenza inaccettabile la richiesta di rilascio immediato dello studente arrivato presentata dal presidente del Parlamento europeo Sassoli. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rai nella bufera, arriva la bocciatura della GCOM. Sotto accusa la programmazione diffusa dalle tre reti generaliste con numerosi episodi, denuncia l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i quali si è accertata la violazione del contratto di servizio circa gli obblighi di imparzialità, pluralismo, trasparenza e indipendenza del servizio pubblico. Secondo l'AGCOM è stato accertato anche il mancato rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza in relazione ai prezzi effettivamente praticati dalla concessionaria RAI nella vendita degli spazi pubblici. Oltre alla multa da 1,5 milioni di euro, l'Authority verificherà il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il canone, e private, la pubblicità, per il finanziamento delle attività e della programmazione di servizio. Le decisioni dell'AGCOM non hanno visto tuttavia un voto unanime, contrario il commissario Murcellini, astensione per Posteraro. Diversi commenti politici, il Partito Democratico chiede che l'amministratore delegato Salini lasci. L'AGCOM sanziona la RAI del governo 5 Stelle, PD commentano da Forza Italia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il Manchester City è stato escluso dall'UEFA, dalla Champions League per 2 stagioni per aver violato le regole del fair play finanziario. Ma cos'è successo? Lo chiediamo a Giovanni Capuano. Giovanni. Eccomi Marta, buonasera. È successo che è arrivata a sorpresa per i tempi, non per il contenuto, la sentenza della Camera giudicante dell'UEFA che mette il Manchester City fuori per 2 stagioni dalla Champions League, un bando che scatterà nel 2020-2021 e verrà replicato nel 2021-2022 con un'aggiunta, una multa da 30 milioni di euro. La motivazione sono gravi violazioni nella sopravvalutazione delle entrate e delle sponsorizzazioni nei bilanci dal 2012 al 2016. Il Manchester City è stato trovato colpevole dalla UEFA e colpevole anche di non aver collaborato con gli organi di controllo. Il caso era emerso nel novembre del 2018, dopo la pubblicazione di documenti e di mail riservate finite sul magazine tedesco Der Spiegel. Da allora è iniziata una dura battaglia tra il Manchester City e i giudici della UEFA, che accusano il club di aver sostanzialmente gonfiato delle sponsorizzazioni per riuscire ad aggirare le norme del fair play finanziario, che come ricordiamo prevedono il pareggio in bilancio. In particolare sotto i riflettori la sponsorizzazione di Etihad Airways, finita a bilancio come sponsorizzazione, ma nella realtà, secondo Neon, versata dalla proprietà della società. Il Manchester City ha già annunciato in una nota che si appellerà al TAS di Losanna, si è detto deluso ma non sorpreso. Al TAS di Losanna era già andato nei mesi scorsi per cercare di bloccare questa sentenza, ritenendo la Camera giudicante dell'UEFA un organo non indipendente. Aveva perso in quel caso, oggi la sentenza, vedremo come andrà a finire nei prossimi mesi, ma di sicuro questo è un monito importante, perché Milan a parte, ma era una vicenda diversa, non era mai capitato che la UEFA escludesse dalle sue competizioni un club del livello del Manchester City. Grazie, grazie a Giovanni Capuano. Adesso sono le 21:16 minuti, con un pochino di ritardo diamo la linea al traffico, poi saremo ancora insieme a Effetto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Scontro aperto nel governo, Renzi attacca Conte, ci cacci pure. Coronavirus, Niccolò supera i controlli in volo per l'Italia in biocontenimento. Arriva il piano per il sud, ma è ironia social, l'immagine è del Golfo di Trieste. Banksy ricompare a San Valentino, ragazza Cupido e fiori di sangue. Allora, abbiamo sentito che ci sono ancora malumori nella maggioranza. Intanto sentiamo questo intervento oggi del Premier Giuseppe Conte. È chiaro che Italia Viva deve chiarire non solo a me, al Presidente del Consiglio, anche al Paese, che cosa intendono fare, nella consapevolezza che se vogliono davvero far correre questo paese, correre con noi, devono rendersi disponibili a correre. Devono rendersi disponibili a correre, insomma un'altra giornata piuttosto difficoltosa per la maggioranza, ma ne parliamo con Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Buonasera Barbara. Buonasera, ciao a tutti. Allora, è una settimana difficile e oggi i nodi non si sono ancora appianati. Sì, però direi che la giornata di oggi mi sembra meno complicata e meno, come dire, con un clima meno duro, meno ostico rispetto a quella di ieri, che effettivamente avevamo lasciato i contendenti, ovvero Conte e Renzi, quasi in una situazione, insomma, di uno scontro che sembrava dovesse precipitare poi il governo in una crisi. Invece abbiamo visto già nella conferenza stampa di questa notte Conte, ma poi successivamente i toni anche di Renzi si sono ammorbiditi, quasi si rimpallano l'uno con l'altro la responsabilità di volere la crisi. Insomma, mi sembra di dire che la situazione non è più, non siamo più sull'orlo, no, della crisi come sembrava fino a 24 ore fa. Detto questo, i problemi non sono affatto risolti. Cioè, il tema principale è non tanto Renzi che fa, secondo me, ma cosa farà questo governo, perché poi stiamo discutendo, cioè tutto questo bailam, questa pseudocrisi, questo dramma è intorno a un provvedimento, quello sulla prescrizione, che difeso strenuamente dalla buona fede del Movimento 5 Stelle, attaccato da Renzi, che riguarda una minoranza di procedimenti che neanche arrivano, visto che la stragrande dei procedimenti penali per reati finiscono durante le indagini preliminari, al processo neanche ci arrivano. Quindi ora, per carità, massimo rispetto, però rispetto, con un paese che sta sull'orlo di una nuova recessione, con i licenziati di Rea Iritali, con l'Italia che sta nella situazione che sta, con Ilva e tutto il resto, ora mi sembra che il tema della prescrizione sia sovraesposto rispetto a degli interessi che sono di natura prettamente politica e personale, cioè personale sia dei singoli leader che delle forze politiche. Sentiamo, e questo certamente non è una bella immagine. Certo, sentiamo cosa ha dichiarato il ministro Bonafede, sentiamolo. Il cosiddetto lodo Conte bis, che entra a far parte della riforma del processo penale, il meccanismo, che devo necessariamente sintetizzarvi, prevede che ci sia un trattamento differenziato tra condannati e assolti in primo grado, per cui dopo la condanna in primo grado c'è uno stop alla prescrizione. Se però c'è un'assoluzione dopo il processo di secondo grado, c'è un recupero dei termini che la persona che era stata condannata in primo grado, di cui non aveva potuto usufruire, tra virgolette. Allora, questo poi era il nodo della questione. Viene appunto facile capire come sia facile il gioco di Matteo Salvini, che dice noi preferiamo occuparci dei veri problemi dell'Italia, perché in effetti Renzi che ha fatto un cancan, esatto, su questa vicenda. Esatto, cioè, esatto. Ogni volta uno lancia il sasso e ritira la mano, lo fa Renzi, ma lo stesso Bonafede, insomma, cioè, ha messo in discussione la tenuta del governo sul tema prescrizione. A me sembra veramente assurdo, anche perché il problema principale dei processi, lo dice Bonafede, lo dice Renzi, lo dice chiunque, sono i tempi dei processi, e non è tanto quello di tenere vittime o imputati, no, appesi appunto a vita alle lungaggini. Questo concetto dell'imputato processi. Infinito, ecco. Sì, del processo infinito. Quindi adesso l'uno e l'altro, allora Bonafede sostiene che è per tutelare le vittime dei reati, invece altri come Renzi sostengono che non si può essere imputati a vita. Hanno ragione entrambi. Il tema è: può un governo essere messo in crisi da un tema come quello della prescrizione, che ripeto sul processo, cioè sui processi in Italia incide per come è stato riformato, perché la prescrizione fino a primo grado continua ad esserci nella riforma Bonafede. Quindi si è visto che i procedimenti si prescrivono prima che arriviamo a processo. Di che certo. Cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di 2/3 dei procedimenti penali si prescrivono prima che si arrivi al primo grado, quindi cioè, mi sembra tutto, appunto, come ho detto prima, molto strumentale. Il tema adesso è, però, mi sembra, e allora perché è strumentale? Cioè, cerchiamo di far capire. C'è un ascoltatore questo. Che ci scrive al 349 238 666: Renzi ha bleffato. Allora, Renzi ha bleffato, non so fino a che punto qui bleffi, sicuramente Renzi ha ripetuto un canovaccio, cioè quello dell'all-in, quello di puntare sul tavolo, no, tutte le fiche, dicendo io sono pronto anche ad andarmene, cioè ha fatto il gesto, solo che a differenza del passato lui oggi non ha la forza. Non ha la forza perché perché è un il suo partito comunque non va bene, nel senso che i sondaggi lo danno ancora molto basso, perché il Partito Democratico in Emilia ha vinto le elezioni senza il contributo dei renziani, che si, quindi hanno visto, come dire, Zingaretti e compagni festeggiare, e loro sono rimasti alla finestra e resi ininfluenti, e quindi chiaramente la forza di Renzi in questo ultimi mesi è andata man mano scendendo. Per recuperare questa centralità Renzi sta battendo molto la gran cassa su Conte e sul governo, e è individuato nel Premier in particolare il principale, no? L'ha messo nel mirino perché il Premier ha come principale sostenitore, questa è una mia opinione ovviamente, proprio il Partito Democratico. In questo momento a sostenere Conte sembra un paradosso, perché come ricorderete, certo, Zingaretti era quello che aveva posto il veto su Conte, cioè in nome della discontinuità tra i giallo-verdi e i giallo-rossi, il segretario del Partito Democratico aveva detto va bene, farò un governo, mi alleerò con i 5 Stelle, ma non... però non con Conte Premier, e invece alla fine, proprio su pressione fortissima, non solo di Grillo, ma anche di Renzi, ha accettato anche Conte. E oggi Zingaretti è l'alleato principale per Conte, perché poi dall'altra parte, e qui veniamo al Movimento 5 Stelle, anche il Movimento 5 Stelle sta facendo questo gran casino sulla prescrizione, fino a quasi a minacciare anche loro una crisi di governo qualora la riforma Bonafede non fosse rimasta. Perché anche loro sono deboli, perché sono il principale partito di maggioranza relativa in Parlamento, ma nel Paese hanno collezionato una sconfitta dopo l'altra e hanno un problema di leadership enorme, visto che l'unico che avevano, cioè Di Maio, si è dimesso alla vigilia dell'ennesima debacle elettorale, quella emiliana e calabrese, e quindi chiaramente anche lì questa debolezza per nasconderla, ma per in qualche modo riaffermare la propria esistenza in vita, è quella di piantare delle bandierine, quindi Renzi da una parte, Bonafede e i 5 Stelle dall'altra, e Conte con il PD che sta in mezzo. Ora, detto tutto questo, il rischio qual è secondo me? Non è tanto il tema della prescrizione, ma il rischio è che questi tipi di incidenti e di bracci di ferro si moltiplichino, e il risultato è che per il Paese questo non va bene, in un quadro peraltro che rispetto al precedente esecutivo, cioè quello con la Lega di Matteo Salvini, sconta pure il fatto che a questo punto difficilmente si può valere anche la minaccia, no, del ritorno al voto. Perché dico questo? Perché sappiamo che il 29 marzo andremo a votare per il referendum sul taglio dei parlamentari, dopodiché ci saranno 2 mesi per, li prevede la legge, non è una cosa che si può fare o non si può fare, per ridisegnare i collegi. A quel punto siamo arrivati in estate, e la finestra elettorale che si aprirebbe sarebbe quella autunnale. Certo. Abbiamo visto quello che è successo quest'anno, no? Quando Salvini voleva le elezioni, e tutti a dire in piena sessione di bilancio con le clausole di salvaguardia. Le clausole di salvaguardia ci saranno anche quest'altro anno, l'autunno prossimo, quindi non si voterà, dopodiché ci sarà, comincerà la corsa sul Quirinale, sul successore di Mattarella, quindi di fatto la possibilità di elezioni anticipate, senza contare poi che con il passaggio della la riforma sul taglio dei parlamentari, se già fino a oggi i parlamentari erano poco propensi a lasciare il loro scranno per ritornare al voto, figuriamoci quando sanno che ci sono 400 posti in meno. Certo. Quindi il fatto però che non ci siano la possibilità di questo ritorno al voto è preoccupante da un certo punto di vista, perché rischia di innescare, come posso dire, una serie di mi viene da dire ripicche, ma insomma vorrei dire di moltiplicarsi appunto quelli che ho definito bracci di ferro per piantare le proprie bandierine, senza che poi questo possa evolvere, come dire, in una situazione diversa, migliore soprattutto per il paese. Grazie Barbara, staremo a vedere soprattutto dopo il fine settimana e poi in attesa del test per la maggioranza al Senato col voto sul decreto intercettazioni. Grazie a Barbara Fiammeri del Sole 24 Grazie a voi, ore. Buonasera. Grazie. Allora, c'è un'altra notizia della quale abbiamo parlato nella nostra prima pagina, che era un po' il nostro giornale radio con le notizie del giorno, è che quella dell'arrivo in Italia di Niccolò, il 17enne di Grado, bloccato a Wuhan. Ha passato il terzo test, i terzi controlli medici per imbarcarsi su un volo militare, quindi sta per arrivare in Italia. Di coronavirus e di effetti invece su aziende e settori in particolare italiani parleremo domenica nel reportage in onda alle 8:15. Una breve anticipazione del reportage, poi una breve pausa e saremo ancora insieme con Effetto Notte. Il Salone del Mobile a Milano a fine aprile si farà, anche senza i visitatori cinesi. Le imprese della moda e dell'arredo vanno avanti, guardando ad altri paesi, oltre alla Cina. La filiera dei costruttori di macchine soffre un po' di più. Quantificare oggi le conseguenze economiche dell'epidemia di coronavirus, scoppiata a cavallo del Capodanno cinese, è ancora difficile. Tutto dipenderà dalla durata di circolazione del virus, ripetono gli imprenditori, secondo i quali, oltrepassata la deadline di un mese, si aprirà saranno scenari difficili da immaginare. Così Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, regione molto esposta verso la Cina. Se ci fermassimo qui, sicuramente nel giro di qualche mese riusciremo anche a recuperare quello che abbiamo perso. Se si andasse oltre, veramente siamo di fronte a scenari che ad oggi è difficile prevedere. Quello che serve è una spinta al sistema paese, sottolinea Marino Vago, numero uno di Sistema Moda Italia, settore penalizzato dai ritardi nelle spedizioni e dal crollo dei consumi. Quello che potrebbe essere il supporto alla promozione dei nostri prodotti sui mercati che non sono toccati da questa situazione è sicuramente un aiuto, è una cosa che andrebbe fatta in ogni caso. Le imprese sono in attesa dunque delle misure, delle risorse annunciate dal governo per contrastare i danni da coronavirus e aiutare Made in Italy e turismo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Scontro aperto nel governo, Renzi attacca Conte, ci cacci pure. Coronavirus, Niccolò supera i controlli, in volo per l'Italia, in biocontenimento. Arriva il piano per il Sud, ma ironia social, l'immagine è del Golfo di Trieste. Banksy ricompare a San Valentino, ragazza Cupido e fiori di sangue. Eccoci ancora insieme con Effetto Notte, sì, questa sera in compagnia di Marta Cagnola, ma solo per questa sera, poi ci ritroviamo domani pomeriggio per il nostro consueto appuntamento in diretta con RadioTube. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, anche per chi mi chiedeva chi condurrà domani RadioTube. No, ci sono sempre io e poi ci sono i miei account social, chiocciola Marta Cagnola, sia su Twitter che su Instagram. Abbiamo parlato delle notizie del giorno, nelle notizie del giorno c'è anche quella di Air Italy, licenziamento collettivo per tutti i 1450 dipendenti di Air Italy. Lo annunciano i commissari liquidatori della compagnia ai dirigenti. Al momento però non è partita alcuna lettera di licenziamento. In una nota della società si parla della conferma di procedura di liquidazione in bonis. Un iter che secondo il Codice Civile prevede 75 giorni di tempo, quindi entro maggio, per dare corso al licenziamento collettivo. Nel frattempo però, si spiega, la società si è impegnata ad esplorare la strada della cessione del ramo d'azienda per cercare di salvaguardare il più possibile i lavoratori. Ma oggi c'è un pezzo che mi ha incuriosito molto, che ho trovato molto chiaro, molto utile per tutti coloro che devono viaggiare e che avranno magari purtroppo comprato in ottima fede un biglietto di Air Italy. Cosa succede adesso a chi ha comprato i biglietti e ovviamente anche ai lavoratori di Air Italy? Pezzo del Sole 24 Ore firmato da Biagio Simonetta. Buonasera Biagio. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci, Biagio. Allora, pensa, è successo anche a una collega di Radio 24, aveva comprato un biglietto di Air Italy. E ora che si fa? Una bella domanda. Innanzitutto direi che forse è necessario fare un piccolo passo indietro e dire che questa liquidazione è arrivata in un momento molto delicato per il mondo dell'aviazione in genere, che a causa del coronavirus e dei voli bloccati da e per la Cina ha bruciato 5 miliardi di dollari in questi primi mesi del 2020. Questa è un'altra notizia che abbiamo pubblicato oggi sul sole24ore.com. Poi direi anche che l'intera vicenda ha sorpreso un po' tutti, soprattutto i consumatori, perché fino a un giorno prima della liquidazione Air Italy faceva campagne stampa sulle promozioni di San Valentino. Quindi diciamo che è una storia un po' all'italiana, poco limpida, che mette a rischio anche 1500 lavoratori. Quindi, venendo ai consumatori e a chi ha comprato un biglietto, allora c'è una data che è un po' uno spartiacque, no, in tutta questa faccenda, che è quella del 25 febbraio. E Air Italy ha fatto sapere che per tutti i voli in programma fino a quella data, con rare eccezioni per alcune partenze previste nella mattinata del 26, è assicurata la regolare operatività, ma con velivoli di altre compagnie, cioè parti lo stesso però con un'altra compagnia. Per tutti gli altri voli, quindi quelli successivi al 25 febbraio, è previsto il rimborso. Se i voli sono stati acquistati direttamente sul portale della compagnia o tramite il contact center, i biglietti verranno integralmente rimborsati secondo alcune modalità che verranno poi rese note tramite mail. Chi invece li ha acquistati tramite un'agenzia deve recarsi in agenzia per chiedere il rimborso. Il vero problema sta per chi ha un volo a cavallo fra le due date, cioè tra il 25 e il 26, cioè perché magari ha prenotato un volo di andata e ritorno con andata prima e ritorno dopo. Allora, il volo di andata è confermato perché Air Italy, come abbiamo detto, lo opera tramite altre compagnie, quindi tu direi che in aeroporto ti verrà detto con quale compagnia viaggiare, quindi in sostanza non avrai problemi. La situazione è più complessa per chi invece deve poi tornare, perché in questo caso Air Italy non è stata molto chiara, ha messo a disposizione un contact center dove... oppure un indirizzo mail al quale scrivere per chiedere appunto delle informazioni, perché in questo caso anche il rimborso, cioè va rimborsata solo una parte. Il punto è che ci stanno segnalando diversi lettori anche che questo call center messo a disposizione innanzitutto è a pagamento e poi è sempre molto affollato, evidentemente perché le persone in ballo sono abbastanza. E ci scrivevano diversi lettori che non riescono neanche a parlare con un operatore, comunque insomma, la situazione è abbastanza in evoluzione. Grazie a Biagio Simonetta per essere stato con noi. Buon lavoro Biagio, andate a recuperare questo pezzo sul sole24ore.com perché ci sono tutti i dettagli, tutti i contatti appunto per chi avesse ancora delle perplessità. Ma io vorrei andare anche in Sardegna per sentire com'è la situazione dal nostro Davide Madeddu. Davide. Ciao, buonasera ecco, a tutti. Sì. Per la Sardegna è la situazione molto delicata. Beh sì, è molto delicata perché Air Italy a Olbia e non solo vale quanto a Torino in sostanza, no? Le 550 persone che ci lavorano, tutto l'indotto, e c'è un sistema anche di competenze che negli anni si è formato e sono di alto profilo. Facciamo un po' fatica a sentirti, Davide. Tra l'altro... Allora, pronto, eccoti Davide. Sì. Eccoti. E tra l'altro c'è anche il problema grosso della continuità territoriale. Esattamente. Allora, questa è ancora in fase di, come dire, di definizione, nel senso che la continuità territoriale è quello strumento che consente alle compagnie aeree di avere di fornire biglietti con tariffe calmierate in cambio di compensazioni economiche. Ce n'è una attuale cui aveva partecipato, ma era stata esclusa Air Italy, però aveva scelto di partecipare senza compensazioni perché questo prevedeva anche il bando, mentre la regione ne sta scrivendo uno nuovo perché comunque adesso dal 16 aprile scade quella che c'è adesso di continuità territoriale. Naturalmente Il caso Air Italy rende la Sardegna ancora più isolata rispetto a, come dire, alla concezione generale, perché comunque viene a mancare un vettore e viene a mancare anche un collegamento. Quindi situazione difficile per chi ha bisogno di spostarsi dalla Sardegna, ovviamente potrebbe avere degli impatti, certo. anche sul turismo, insomma la situazione. Sul turismo abbiamo avuto l'allarme lanciato i giorni scorsi dal presidente di Federalberghi, che ha detto che stanno già cominciando ad arrivare le prime disdette. Ecco, non appena è venuta fuori la notizia della messa in liquidazione di Eritali, diceva alla BIT di Milano, dove eravamo, hanno iniziato a disdire qualche appuntamento. Allora speriamo che la situazione riesca a trovare una soluzione il prima possibile. Grazie a Davide Madeddu, grazie Davide. Grazie a voi. Ci aggiornerai in tutti i giornali radio. Noi facciamo una breve pausa, poi saremo ancora insieme con l'ultima parte di Effetto Notte. A volte sceglieresti un'auto seguendo solo le emozioni, altre invece ascolti tutte le ragioni e in certi casi pensi più a domani che ad oggi. Ma ora con Nissan Qashqai puoi dire addio ai compromessi. A febbraio il crossover più amato da sempre è tuo a tasso zero, con zero anticipo e zero pensieri, con valore futuro garantito, anche senza permuta o rottamazione. TAN 0 Taigun 01 con finanziamento iBuy, salvo approvazione Nissan finanziaria. Info su nissan.it, anche nel weekend. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Scontro aperto nel governo, Renzi attacca Conte, ci cacci pure. Coronavirus, Niccolò supera i controlli, in volo per l'Italia in biocontenimento. Arriva il piano per il sud, ma è ironia social, l'immagine è del Golfo di Trieste. Banksy ricompare a San Valentino, ragazza Cupido e fiori di sangue. Torniamo insieme nell'ultima parte del nostro Effetto Notte, perché io ho una curiosità. Allora, è la sera di San Valentino, io non so chi sta festeggiando, chi non sta festeggiando, so che sta festeggiando una famiglia inglese, una famiglia di Bristol, che si è trovata sulla parete dell'edificio della loro casa un graffito. Tutti hanno detto Bristol, sarà Banksy, non sarà Banksy. Lui ha postato la foto del graffito su Instagram e sul suo sito, e allora è proprio suo. Ma allora, questo Banksy piace solo a noi che ci divertiamo a guardarlo sui social, oppure che parliamo di lui per le quotazioni, o è davvero un grande fenomeno dell'arte? Non possiamo che chiederlo alla super esperta di arte del Sole 24 Ore, Marilena Pirrelli. Benvenuta, Marilena. Grazie a voi. Allora, Marilena, cosa rappresenta Banksy nell'arte? Beh, sicuramente rappresenta una svolta, una novità, un linguaggio anticonvenzionale che va a rompere gli schemi. E proprio questo continuo sorprenderci è quello che in qualche modo ci piace, che attira la nostra attenzione, ma che non è, direi, quasi mai banale. Tant'è che flussi di turisti, appunto selfie, le persone vanno ad incontrare le sue opere, proprio perché lui sceglie i muri, sceglie la strada, sceglie quello che è di tutti. E anche quando quello che lui rappresenta in opere finisce in asta sul mercato, lui anche in quel caso è irriverente, perché appunto lui cerca di dirci costantemente che il mondo in cui viviamo è pieno di contraddizioni e ci fa riflettere. In questo caso questo murale ritrae la bambina con la fionda, noi abbiamo presente queste bambine di Banksy, che lancia, appena lanciato con la fionda sul muro, una spruzzata di rosso, cuori, rose, fiori, quindi insomma è San Valentino anche per lui. E San Valentino anche per lui. Del resto lui in altre occasioni, con le rene di Natale, ci aveva fatto sognare con un barbone, con gli auguri ci aveva fatto vedere un bambino che purtroppo, invece che ingoiare fiocchi di neve, ingoiava cenere. Ci ha sempre fatto riflettere sul fatto, e anche questo splash che ci fa vedere potrebbe essere un cuore che esplode più che un mazzo di fiori, ci fa vedere sempre che dietro dei gesti apparentemente ingenui ingenuo e infantile c'è del dolore o comunque c'è della riflessione. Questo ci aiuta a tornare sui temi dell'oggi, dell'arte, per alcuni in modo banale. Io non trovo che sia banale un artista che continua ad lavorare costantemente nella, come dire, nell'oscurità, che appunto ha scelto la tecnica dello stencil perché è la più veloce da applicare e scomparire in qualche modo, e quindi credo che sia un artista che porti un valore a un'arte da fiera spesso. Ma com'è possibile che non sappiamo chi è? Come agisce? Allora, io mi sono fatta un po' un'idea. Banksy ovviamente per lavorare ha bisogno di un gruppo di lavoro, non è immaginabile che lui lavori da solo. Del resto anche a Venezia abbiamo visto, quando ci ha fatto vedere la performance con i quadri e le grandi navi, era evidente che aveva un gruppo di lavoro, quindi sicuramente potremmo immaginarlo come un collettivo quasi, più che con una persona fisica. Lui probabilmente ha la regia, fa la regia di queste azioni artistiche, ma appunto questa caccia al nome mi sembra molto, come dire, molto consumistica. Lui si sottrae proprio per questo, il suo valore è proprio l'anonimato. E del resto, se noi andiamo nel passato, spesso l'opera d'arte non aveva una identità così forte. Era frutto di una scuola, di un laboratorio, quindi l'opera d'arte è stata sempre frutto, certo, di una mano felice, ma del contributo di molti artisti. Quindi si lega un po' a una tradizione molto antica. È curiosa questa cosa. In effetti è adesso che vogliamo sapere tutto dell'artista? Beh, un po' perché c'è questa caccia all'arte come investimento che probabilmente in qualche modo serve ad altri fini più che fini dell'arte. Sottolineo come questo sistema che ha poche barriere di sicurezza consente appunto l'ingresso di denari poco leciti piuttosto che l'evasione fiscale. Per cui sicuramente è un sistema che agevola, o perlomeno ha agevolato finora, il riciclaggio o l'evasione. Ecco, l'arte è un'altra cosa. L'arte fortunatamente è questo gesto di protesta di Banksy, che ci fa vedere appunto la ragazzina che con la fionda lancia un cuore che fa splash. Quindi penso che dovremmo tornare a immaginare l'arte non come una caccia al record, che pure Banksy ha segnato, ma ha subito sottolineato nel suo Instagram: peccato che l'opera non la possedevo più io, per cui poco mi importa, insomma, del record, che non è soltanto un valore economico, ma è un significato ben preciso che spesso tocca il nostro cuore e la nostra mente. Come si proteggono queste opere? Perché il murale è un'opera sicuramente che rischia di essere effimera, perché è esposto alle intemperie, ai cambiamenti della città. Quest'arte è fatta per scomparire in qualche modo, per vivere probabilmente una frazione del nostro tempo. Del resto forse anche l'affresco era questo. Pensiamo a Leonardo, che forse ha usato materiali che non erano fatti per durare. Ovviamente c'è chi invece si avventa, direi, quasi su queste opere, e questo è il caso di questo muro, che è stato subito protetto con del plexiglass, del vetro, insomma, hanno cercato di salvarlo, o con addirittura la convocazione di security per evitare il saccheggio, perché anche questo abbiamo osservato in alcuni muri che rappresentavano quasi appunto un itinerario turistico di Londra o di altre città inglesi, sono stati poi graffiati via, divelti questi murales. Sicuramente c'è un mercato dietro ogni cosa che fa Banksy, e sicuramente un'opera d'arte ha più possibilità di durare all'interno, ma è proprio il museo, è l'interno che Banksy contesta, e quindi che l'arte sia effimera penso che faccia proprio parte della sua filosofia artistica. Marilena, perdonami, ti faccio allora la domanda stupida: i giornali inglesi, soprattutto i giornali online, oggi titolano la famiglia più fortunata della Gran Bretagna, perché il loro palazzo adesso, la loro casa varrà tantissimo. Ma è stupida questa considerazione oppure ha un qualche senso? È assolutamente autentica, lo abbiamo visto per Venezia quando abbiamo trovato ad Orso Duro il bambino con la fiaccola e rappresentava proprio appunto il migrante che cerca aiuto. Subito quel palazzo che era in vendita guadagnò quotazioni. Quindi sicuramente la street art, ma l'arte io direi più in generale, riqualifica i territori, riqualifica le persone, quindi riqualifica le relazioni sociali e sicuramente dà valore economico anche al luogo dove questa epifania si verifica. Per cui posso comprendere la felicità di dei proprietari di questo immobile nel ritrovarsi un regalo così, tra virgolette, ricco come un San Valentino con un cuore che fa splash. Peraltro era anche il compleanno del signore, quindi beato lui, insomma, ha festeggiato bene. È bellissimo, andate a cercarlo se non l'avete ancora visto, in rete ci sono mille immagini. Devo ringraziare tantissimo Marilena Pirrelli, espertissima d'arte del sole 24 ore. Grazie Marilena. Grazie a voi, buona serata. Mi sono tolta tutte le curiosità relative a Banksy per quanto riguarda quest'opera che, lo stavo dicendo, è molto molto carina. Andatela a vedere in rete, ci sono un sacco di immagini. È il momento dei ringraziamenti, perché poi ci ritroviamo per il giornale radio, brevissimo giornale radio delle 22, ma devo fare i ringraziamenti per questa sera a Carmelo Lauricella in regia, ad Alessandro Schirano in redazione. Adesso andiamo tutti a festeggiare San Valentino, però poi ci ritroviamo domani in diretta con RadioTube dalle 16 alle 18. Tra poco!